sotto il carcere di Velletri. Pronto? Pronto, ciao a tutti e a tutte. Ciao. Saluto. Allora, siete arrivati sotto il carcere di Velletri e quanti siete più o meno lì sotto? Guarda, saremo una cinquantina abbondante. Siamo partiti da Roma questa mattina, visto il treno, visto la macchina, ci hanno raggiunto anche compagni e compagne, insomma, qui vicino. Abbiamo allestito un presidio con delle tasse per farci sentire. È stato bellissimo vedere che nonostante la distanza, i detenuti, i ragazzi che stanno dentro ci hanno risposto mostrando lenzuola, fazzoletti, carta igienica, insomma, e abbiamo raccolto molti messaggi di solidarietà per ribadire che insomma dentro queste mura nessuno è solo, e per mandare un pensiero in particolare a Giovanni, ragazzo che si trova detenuto in questo carcere dopo i fatti del 15 ottobre, uno dei pochi a essere stato condannato a 3 anni e 4 mesi, e ci sembrava giusto e opportuno venire a fare un saluto per ribadire anche a lui insomma che non è solo. Certo. Senti, ricapitoliamo un po' com'è la situazione degli arrestati del 15 ottobre, no? Giovanni ha avuto 3 anni e 4 mesi, Robert ha avuto 2 anni, Robert il ragazzo che rischia, sì, anche... Che rischia. Guarda, anche... rispasso un attimo che stanno mandando dei messaggi dal microfono, se no non... Sì, ok. Solo, Certo. Eh sì, insomma la situazione è abbastanza critica nei confronti di questi ragazzi, che è spagliata con tutta la sua violenza, la sua ragazza, la vendetta degli apparati giudiziari, dello Stato, certo. Il primo a essere stato condannato è stato proprio Giovanni a 3 anni e 4 mesi, come stavi dicendo te, e dal giorno del 15 ottobre lui si trova ancora detenuto in carcere, prima a Regina Coeli e poi qui a Velletri, e mentre al momento ci sono altre 4 condanne, quelle che hanno colpito Lorenzo e Giuseppe, cioè, con 4 e 5 anni, le pene più alte che sono state al momento inflitte. E l'altro ieri, Lorenzo e Giuseppe sono due ragazzi insomma di qua vicino, certo, che si stanno sentendo, mandiamo un saluto caloroso anche a loro. E un altro ragazzo che è stato condannato invece è Robert, a 2 anni, e l'altro giorno c'è stata la condanna per Ilaria, la ragazza di Roma, che ha preso 2 anni e 4 mesi, che però al momento è fortunatamente libera, perché avendo già scontato 5 mesi di arresti domiciliari e avendo ottenuto la condizionale può insomma uscire di casa. Anche lei dal 15 ottobre ha scontato 5 mesi di arresti domiciliari. Certo. Quindi ecco, la conclusione che possiamo trarre è che sono stati veramente pesanti. Scusa, si può ripetere che non ti sento bene. Dicevo, la magistratura è stata estremamente pesante nei confronti di questi arresti, che poi in realtà non era altro. Non ti sento bene. Allora, no, dice, pronto, mi senti adesso? Sì, adesso sì, adesso. Allora, sì. Dicevo che la magistratura è stata abbastanza pesante, troppo pesante nei confronti di questi ragazzi e ragazze, di questi attivisti e attiviste, perché in realtà 15 anni in totale, oltre 15 anni hanno avuto per essersi difesi dall'aggressione della polizia a San Giovanni il 15 ottobre, ed è una sono pene anche abbastanza più elevate di quelle che venivano date fino a qualche tempo fa, e quindi c'è da fare una considerazione, per questo appunto, certo, si è fatta questa iniziativa. Certo, quello che noi pensiamo, che stiamo ribadendo più volte, gridando, che quella della magistratura, degli apparati giudiziari, è una vera e propria vendetta. Noi pensiamo che queste sono pene esemplari che stanno portando, che stanno adducendo a dei ragazzi che erano in piazza quel giorno, e che vogliono essere un po' un monito nei confronti di tutti coloro che alzano la testa, che scendono per le strade, che manifestano, esprimono tutto il loro dissenso nei confronti del contesto attuale, nei confronti di una crisi che viene fatta pagare sulle popolazioni, nei confronti della mancanza di libertà individuali, insomma. E pensiamo che proprio per questo sia importante nei confronti di chi si scaglia con questa violenza nella vita, ribadire che questi ragazzi non sono soli, fargli sentire la nostra vicinanza, e pensiamo oltretutto che la maniera migliore per esprimere solidarietà è quella di continuare a portare avanti le nostre lotte a testa alta, con la dignità che contraddistingue tutti i compagni e le compagne. Certo. Un pensiero particolare in questo senso lo mandiamo a tutti i compagni e le compagne arrestati, denunciati o ancora detenuti per l'operazione repressiva che qualche settimana fa si è scagliata nei confronti del movimento NoTab, rispetto alla quale ancora una volta lo Stato, impaurito da una mobilitazione popolare estesa e radicale, ha mostrato volto, insomma, più arrogante e violento, certo. Un pensiero particolare a loro. Ribadiamo come anche lì dentro nei ragazzi d'Italia stiano arrivando messaggi di solidarietà anche ai ragazzi del 15 ottobre, segno che le lotte uniscono e queste mura non potranno mai dividere, insomma, la nostra volontà di lottare per un mondo libero. Certo. D'altronde domani, domenica, il movimento No TAV dà un'indicazione di stare sotto tutte le carceri dove sono reclusi le persone colpite dalla repressione del, esatto, movimento No TAV. Quindi noi l'abbiamo fatta oggi perché domani appunto il carcere non fa i colloqui, carcere di Velletri, esatto, dove si trova Giovanni. Esatto. Però noi abbiamo anche scritto, diciamo, un comunicato, abbiamo ribadito che la mobilitazione di oggi sotto il carcere di Velletri aderisce alla chiamata che arriva dalla Val di Susa, è in connessione diretta e, come dicevi, solo per motivi tecnici organizzativi, cioè il fatto che oggi ci sono i colloqui e perciò volevamo anche cercare i familiari detenuti di questo carcere, certo, abbiamo anticipato di un giorno, certo. Pensiamo che venga gradito anche questo anticipo, insomma. Certo. Ecco, due ultime parole su, diciamo, la rete Evasioni, che è la rete che sta organizzando il sostegno, la solidarietà e anche le iniziative, perché nessuno colpito dalla repressione rimanga più soli. La rete Evasione vuole appunto sostenere e solidarizzare con tutti senza guardare differenze o emarginazioni di chiunque venga colpito dalla repressione. Sì, pensiamo che in questo momento in cui la repressione si scaglia con la sua violenza, colpisce indistintamente tutti e tutte, noi pensiamo che sia in atto in questo momento un'operazione molto chirurgica volta a colpire da una parte chi si organizza come i compagni e le compagne, ma anche chiunque scende in piazza spontaneamente e liberamente per esprimere il proprio dissenso. Perciò è nata questa rete che racchiude molti compagni e compagni, li unisce in un lavoro che vuole innanzitutto rompere l'isolamento nei confronti di chi si trova detenuto, vuole tenere alta l'attenzione sul tema della repressione, portando avanti solidarietà nel momento in cui i processi e la repressione stessa si scaglia, e vogliamo ribadire a chiare lettere, insomma, in questi momenti stringersi, essere uniti fianco a fianco e avviare rapporti di collaborazione, di condivisione, è quanto mai necessario. È un lavoro che ovviamente viene aperto ai contributi di chiunque, perché pensiamo che liberarsi da ogni gabbia, da ogni sbarra, sia un qualcosa che unisce e che orienta il nostro cammino quotidianamente. D'accordo, senti, che fin quando rimarrete lì sotto al carcere di Velletri con questi... Guarda, adesso si sta verificando qualcosa di molto bello, perché per far sentire la nostra solidarietà in maniera concreta abbiamo portato 4 scatole che verranno poi recapitate a Lorenzo, Giuseppe, Robert e Giovanni, e stiamo distribuendo cartoline, ci sono compagni e compagne che hanno portato dei piccoli gesti di solidarietà, dei volantini, dei libri, li stiamo raccogliendo, c'è un'atmosfera comunque molto solidale, penso che un altro po' ci staremmo, poi torneremo a Roma perché vedremo anche insomma di portare la nostra solidarietà ai compagni e alle compagne che questa mattina stanno subendo un processo per la repressione che si è scagliata ieri nelle strade della città, prima a Via della Mercede e in altri momenti più tardi, anche quando c'è stato un tentativo di sgombro all'occupazione a Casal Boccone. Casal Boccone, certo.